na na na na na ni na, per puvetto vola zinna, fa la ninna dormi via sonno, che si dormi non vedrai, tante infami e tanti guai, che succedono nel mondo fra le bombe, i fucili e i rivoli civili. Ninna nanna tu non senti i sospiri e i lamenti della povera gente che si scanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza, della gente che si scanna per un matto che comanda, e a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede. Ma che serve da riparo a re macellaro che sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, fa la ninna, fa la nanna, fa la ninna che domani rivedremo ancora i sovrani che si scambiano la stima, buoni amici come prima, so cugini e fra parenti e non se vanno i complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali. E senza l'ombra d'un rimorso sai che bel discorso ci faranno tutti insieme sulla pace e sul lavoro per quel povero coglione risparmiato dal cannone. Ninna nanna,